Il punto di Stefano Folli. Il voto sorprendente con cui il Parlamento inglese ha legato le mani a Cameron sull'intervento in Siria fa capire meglio il senso delle perplessità italiane. Il ministro degli esteri Emma Bonino fin dall'inizio aveva chiarito che l'Italia non avrebbe partecipato all'azione se non all'interno di una precisa cornice delle Nazioni Unite e si è detto che questa riluttanza dipendeva dalla debolezza politica interna. È vero, a metà siamo deboli, certo, ma nessuna forza politica, proprio nessuna, né di governo né di opposizione, ha chiesto una linea più aggressiva contro Damasco. E in realtà ora si vede che è l'intera Europa, compresa la vecchia Inghilterra e con la sola parziale eccezione della Francia, a essere riluttante, anche per via della mancanza di prove sull'uso dei gas. Obama adesso è solo, ma la sua politica estera contraddittoria è questa ad averlo messo nel vicolo cieco. Stavolta l'Italia non si può rimproverare nulla.